fatto di neve e gelo, quelli luna e Dio il cielo, e di erba e Dio il suolo. Tu, e di polvere Dio il vento, una lacrima e Dio il pianto. Nei colori, quelli stupidi e quelli.